24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il caso della clamorosa smentita del comunicato congiunto italo-franco-iberico sulla rapida attuazione degli accordi raggiunti all'ultimo summit europeo. Le borse continentali affondano, mentre anche la Catalunya chiede aiuto al governo centrale di Madrid per evitare il default. In Grecia intanto potrebbe rendersi necessaria una nuova ristrutturazione del debito. Annunciati formalmente i finalisti del premio europeo Lux per il cinema, mentre countdown per l'inizio dei giochi olimpici a Londra. In primo piano sempre l'emergenza economica in Europa. Mistero sull'appello congiunto di Spagna, Francia e Italia all'Unione Europea. Prima la Francia, poi l'Italia hanno negato l'esistenza dell'appello con la Spagna affinché vengano rapidamente attuati gli impegni concordati dai leader europei al vertice di fine giugno, in particolare lo scudo antispread voluto da Roma, così come la possibilità di effettuare ricapitalizzazioni delle banche direttamente dal futuro Fondo Salva Stati Permanente ISM. L'appello è stato diffuso sulla pagina web del governo spagnolo, a firma del ministro degli affari europei iberico Iñigo Méndez de Vigo e dei colleghi italiano Moavero Milanesi e francese Bernard Cazeneuve. Nel comunicato si sottolineava l'appoggio ricevuto da Danimarca e Irlanda, poi, come detto, la smentita a sorprese. Il francese Cazeneuve dice, anzi a chiare lettere, di non aver mai chiesto un'immediata attuazione degli accordi del summit europeo. Anche fonti di Palazzo Chigi hanno negato l'esistenza di questo comunicato. Finora nessun paese ha chiesto l'attivazione dello scudo antispread, nemmeno la Spagna. Questa è l'indicazione fornita dalla Commissione europea ieri. Questo strumento può essere usato su richiesta degli Stati, finora nessuno lo ha fatto, ha detto Bruxelles. E restiamo sempre in Spagna, dove la Catalunya ha ufficialmente chiesto l'aiuto del governo centrale, il servizio. Anche la Catalogna, la più ricca delle regioni spagnole, chiederà aiuto allo Stato centrale per evitare il default. Senza un euro in cassa, incapace di far fronte alle scadenze del debito e alla spesa per scuole e ospedali, la regione di Barcellona ha annunciato che aderirà al fondo speciale di liquidità da 18 miliardi appena creato dal governo nazionale. Nei giorni scorsi anche la comunità di Valencia e di Murcia avevano chiesto il soccorso dello Stato e almeno altre 5 regioni, compresa l'Andalusia, sono vicine alla bancarotta. La Catalogna, con un PIL di 200 miliardi di euro, vale quanto l'economia del Portogallo e contribuisce per un quinto al prodotto interno lordo spagnolo. Ma ha anche un debito di 42 miliardi di euro e da qui alla fine dell'anno deve affrontare scadenze e pagamenti per 5,7 miliardi di euro. In cambio degli aiuti, l'autonomia catalana dovrà rinunciare almeno in parte all'orgoglio autonomista accettando la supervisione di Madrid sul bilancio regionale. Dopo il piano di sostegno alle banche con i rendimenti dei bonus decennali sopra il 7,5%, i gravi problemi delle regioni rendono sempre più probabile l'intervento dell'Europa per salvare l'intera Spagna. Luca Veronese, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la situazione politico-economica, in particolare le notizie provenienti dalla Spagna, ha pesantemente influenzato le borse. Nuova seduta ad alta tensione, in particolare per i listini dei paesi periferici dell'Eurozona, colpiti da un'altra ondata di vendite. Le tensioni sulla crisi del debito hanno zavorrato Piazza Affari, dove il FTSE MIB ha perso il 2,71%. Ancora peggio ha fatto Madrid. Il presidente della Commissione europea, José Barroso, sarà domani ad Atene per un incontro con il premier ellenico Antonis Samaras. Intanto, nel giorno in cui ha preso il via la missione della Troika europea ad Atene, fonti comunitarie hanno annunciato che la Grecia non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi concordati con l'Europa e quindi si renderà necessaria una nuova ristrutturazione del suo debito. Sentiamo Vittorio D'Arold. Oggi è arrivata proprio la Troika ad Atene per verificare i conti greci e giovedì il presidente della Commissione europea, José Barroso, incontrerà sempre ad Atene il premier Antonis Samaras per parlare della situazione economica greca. La situazione è abbastanza grave, Atene deve tagliare altri 11 miliardi per il biennio 2013-14 per ottenere a settembre una tranche di 30 miliardi. Ma il premier Samaras ha reso noto che la recessione sarà del 7%, quindi molto di più delle stime, mentre i sindacati sono tornati in piazza contro i tagli ai salari e alle pensioni. La situazione quindi è che il governo greco chiederà probabilmente più tempo per ridurre il deficit, che quest'anno dovrebbe essere al 7%, o di congelare dei pagamenti ai crediti, ma la Germania continua ad opporsi a nuove concessioni. E così aumentano sempre di più le tensioni. La manipolazione intenzionale di tutti i benchmark finanziari è un reato penale. Questo è il principio che la Commissione europea inserirà con una serie di emendamenti alle nuove regole e alla direttiva sulla manipolazione di mercato e l'insider dealing che saranno proposte in ottobre. La stretta arriva dopo lo scoppio dello scandalo Libor-Euribor. Oggi la Commissione varerà formalmente le proposte. Le esportazioni verso i paesi esterni all'Unione Europea sono calate a giugno del 2,8% su base mensile, un ribasso che ha seguito la crescita registrata a maggio, lo rileva l'Istat. La Banca Centrale Europea torna a mettere sotto accusa l'Ungheria, la cui tassa sulle transazioni finanziarie, estesa anche alle operazioni della Magyar Nemzeti Bank, compromette l'indipendenza dell'istituto centrale. Lo si legge in un parere legale pubblicato sul sito web della BCE. L'Unione Europea ha respinto la richiesta del ministro degli esteri israeliano Avigdor Lieberman, che voleva inserire Hezbollah nella lista nera delle organizzazioni terroristiche in seguito all'attentato della scorsa settimana in Bulgaria. Non c'è alcun consenso per inserire Hezbollah nella lista delle organizzazioni terroristiche, ha affermato il ministro degli esteri cipriota Erato Kozaku Markullis, il cui paese è presidente di turno dell'Unione Europea. L'Italia ha ribadito la sua contrarietà all'attuale proposta sul quadro finanziario pluriennale europeo per il periodo 2014-2020 proposto dalla Commissione, che rischia di essere discriminatoria nei confronti delle politiche di coesione. È un problema di coerenza, ha dichiarato il ministro agli affari europeo Enzo Moavero durante il suo intervento nel dibattito al Consiglio Affari Generali, perché la proposta al momento sul tavolo non è in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro nelle regioni più svantaggiate né con il riorientamento chiesto dal Consiglio europeo. La riforma della politica agricola comune, così come prospettata dalla Commissione europea, aumenta gli oneri burocratici e i costi di gestione e di controllo a carico delle casse comunitarie. Lo denuncia Confagricoltura, che stima una spesa maggiore pari a quasi 400 milioni di euro per anno, portando il costo per ogni beneficiario a 370 euro. Sono aumentati del 15% i sequestri di prodotti contraffatti alle dogane dell'Unione europea. Nel 2011 sono stati bloccati 115 milioni in beni sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale, per un valore che ha raggiunto quota 1,3 miliardi di euro. La Commissione europea sospetta che 13 aziende produttrici di lettori di CD e DVD per computer abbiano costituito un cartello a livello mondiale. Le aziende finite nel mirino dell'antitrust comunitario si sarebbero coordinate per ben 5 anni nel partecipare a gare per la fornitura dei loro prodotti a società fabbricanti personal computer e server. In Europa servirebbe un po' meno spread e un po' più cultura, a dichiararlo l'eurodeputata Silvia Costa, membro della Commissione della Cultura ed Educazione all'Europarlamento, alla presentazione della nona edizione delle giornate degli autori in programma a Venezia dal 30 agosto all'8 settembre. Silvia Costa ha annunciato ufficialmente i tre film finalisti del premio Lux: Just the Wind di Benz Fligoff, Tabù di Miguel Gomez e per la prima volta un film italiano, Io sono lì di Andrea Segre. Il direttore delle giornate degli autori, Giorgio Gosetti. È una vocazione storica delle giornate degli autori, lavoriamo da sempre con Europa Cinema, che è un programma di media costruito dagli esercenti di qualità di tutta Europa e che assegna in esclusiva a uno dei nostri film europei il suo premio di qualità. Lavoriamo con il Parlamento Europeo a questo programma che si chiama 27 volte cinema, che porta 27 ragazzi, uno per paese europeo, anzi indico un concorso, l'ascoltatore che in meno tempo e con meno errori riesce a dire i 27 paesi dell'Europa comunitaria, beh, gli diamo un premio noi. E poi premiamo i tre finalisti del premio Lux, che è il premio del Parlamento Europeo per il film del continente che esprime meglio i valori dell'Europa così come la sogniamo. In questo caso sono molto contento di dire che nei tre finalisti uno è italiano, si chiama Io sono lì, è il film di Andrea Segre che è stato rivelato dalle giornate degli autori l'anno scorso e come è stato detto oggi da Silvia Costa, membro della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, in verità i film italiani sarebbero stati due perché c'era anche quello dei fratelli Taviani, che però hanno deciso di ritirarsi molto nobilmente da questa competizione dicendo a noi è andata fin troppo bene, troppi paesi ci hanno già acquisiti per distribuirci, questo è un premio per incentivare la circolazione dei film largo ai giovani, vogliamo che sia un altro a prendere il nostro posto. E mancano ormai davvero poche ore alle Olimpiadi di Londra, sentiamo. Nel pentolone olimpico da scoperchiare venerdì bolle di tutto, con la politica che si mescola al gossip e al glamour. C'è una bella adesione della Libia al minuto di silenzio per ricordare i morti di Monaco 72. Ci sono preoccupazioni per la sicurezza, ormai abituali nel mondo che abitiamo, che vanno ricordate per doveri di cronaca, ma magari non enfatizzate quando il capo della sicurezza Chris Ellison parla di livello di minaccia terrorismo attualmente sostanziale, un gradino sotto il massimo che è severo. Del resto, Londra è ora e per 2 settimane il centro, come detto, di questo mondo complicato. Intanto si compila la lista degli ospiti d'onore alla cerimonia inaugurale. Ci sarà l'immenso Muhammad Ali, che ci siano anche Brad Pitt e la Jolie, forse è un po' meno importante. Mancherà invece Cristina Kirchner, presidente argentino. Un portavoce non ha voluto collegare la diserzione alle tensioni degli ultimi mesi sulle isole Falkland. Ma questa assenza somiglia tanto a uno schiaffo. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.